spezzami il veleno, asciugami la sete che ho. Versami il veleno lentamente. Bevi, bevi con me. Trasformati in profumo, ubriacami la vita, goccia a goccia sarà irripetibile eternamente. Goccia a goccia, bevi, bevi con me. Vestiti di vetro, asciugami la sete che ho. Tu versami il veleno lentamente. Goccia a goccia, bevi, bevi con me. Attraverso che io possa